United States Waving Chicken Man, topside United States with the wave, bugger. Attento Billy. La signora Virginia è di CQ10. CQ canale 10, c'è qualcuno in ascolto. CQ canale 10. CQ10. CQ canale 10, c'è qualcuno in ascolto?